triste e disperate, da lì da sole lasciate in Firenze i tuoi ricordi, me li han portati via con l'estate. È il tempo e la tristezza, un abbandono non programmato, ti fa lacrimare gli occhi, la ponte vecchia che sei passato. Firenze, i miei ricordi, gli abbevuti l'anno mi ha lasciato in fondo. Firenze, i miei ricordi, gli abbevuti l'anno mi ha lasciato in fondo. Poeta ci guarda un po' storto, sarà il vento, sarà un piccione, se tu soffiato corto, ti stia confondendo con la madre Beatrice, scappiamo prima che con me faccia carote felice, la basilica di San Miniato che nascosti i suoi tesori, interessanti appuntamenti al buio, stanno qui ad aspettare i visitatori. Firenze, i tuoi ricordi, forse me li han fregati due pastori sardi. Firenze, i tuoi ricordi, forse me li han rubati due barbuti sardi. C'è Caravaggio, andiamo a girare un cortometraggio, sue pietate e congetture per riempire tutte quelle parti scure. Firenze, i tuoi ricordi, chiedo a Girolamo che me li mandi così. Firenze, i tuoi ricordi, oppure chiedo a McDonald's se non ti vedi. Non ti senti bene, c'è questa selva di gambe turiste, poco per bene, che girano in centro con tacchi, si sentono veri sexy, si comprano un volano, Rolls, poi chiamano un taxi. Mi sembra di sentire ancora le sirene cantare l'aurora, mi sbaglio.